I'm back. Did you forget about me? I'm back. 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Avete cominciato già a sentire lo spot di questa sera e cominciare a sentire le tracce di Loki per quanto riguarda quest'oggi. Allora, io inizio ad aprire i microfoni, quindi the microphone is open, are open, the microphones are open. I'm sorry. just for me. Stiamo parlando delle cuffie, non avrete cuffie, solo io, no. Allora, siamo tantissimi, per cui ci sarà forse un po' di confusione. Abbiamo diversi traduttori, traduttrici. Innanzitutto volevo ringraziare Loki, Shadia, Logic, Kento che stanno qui e Await che oggi suoneranno insomma per questi due giorni per la Palestina, una due giorni insomma in solidarietà ai vari progetti che anche Free Palestine a Roma sta portando avanti in Palestina con le palestinesi e i palestinesi. E anche e soprattutto in questo momento continuare a parlare di Palestina non soltanto insomma quando si parla appunto di uno Stato, due Stati o quello che decideranno le Nazioni Unite, gli Stati Europei piuttosto che gli Stati Uniti d'America, ma quella che è veramente la lotta e la resistenza che dal basso si fa in Palestina, ma si fa anche nelle varie città. Insomma, loro vengono da Londra e dove in quest'ultimo anno ci sono stati diversi stravolgimenti, insomma tantissime forme di lotta, non riesco neanche più a parlare italiano, manifestazioni, si parla degli studenti piuttosto che della continua uccisione da parte della violenza della polizia contro soprattutto le periferie, i ragazzi di colore nelle periferie e quindi delle continue rivolte che ci sono. Parleremo anche di questo, visto approfittiamo insomma che ci sono loro qua, approfittiamo anche di Tiziana che ringraziamo, che ha permesso anche tutto questo, e varie traduttrici, traduttori, insomma siamo tutti qua. Allora, io la prima domanda che vi faccio è che si è parlato molto delle varie rivolte in Medio Oriente che hanno avuto come capostipiti, anche come precursori, come stimolatori diversi cantanti. La mia domanda è, rispetto a Londra e a quello che è successo e sta succedendo a Londra, l'importanza dell'hip hop, della musica nelle periferie, nel movimento, tra la gente. Voi avete dei testi molto politicizzati e siete secondo me uno anche dei, non ci sono tanti gruppi che hanno dei testi così politicizzati, non soltanto verso quello che succede in Palestina, il cui tema è molto importante, ma anche quello che succede in tutta la politica internazionale e la politica insomma all'interno del vostro Stato, che ovviamente in quest'ultimo anno, calcolando anche le varie rivolte che ci sono state, evidentemente è uno Stato molto repressivo, sia a livello poliziesco c'è la crisi, quindi bisogna reprimere, bisogna stringere, qualcuno la deve pagare, e a Londra mai come a Londra il divario economico è così forte, quindi una categoria sociale che può pagare la crisi è ancora più evidente. Quindi insomma, se vi va di raccontare un po' questo, di questo, di l'hip hop in questo momento a Londra. The first question is what was okay, allora se ti use that, so okay. Andrea can translate. All right, well, firstly, thank you very much for having us. It's an honor to be here and a privilege to be here. Am I on? Yeah? Okay. And basically what I would say is, in London at the moment, our responsibility is really to give an alternative narrative to the narrative which is being pushed forth. And is, you know, you have people going to jail for 4 years for making Facebook posts on the internet. And you have a guy with cancer that was just sent to jail for 8 months for stealing a TV during the riots. In that situation, when you're a hip-hop artist, I think personally, in my opinion, that rather than adding to the hysteria, and a lot of people don't understand the context of these situations, and they see it simply as fear. So these people that are stealing from shops, of course, they're not saying stealing is right. Our government says stealing is right on a mass level and has done for centuries. Allora, whether it's stealing land, or stealing resources. But when we're talking about youth taking to the streets and being given 4 years in prison for posting on Facebook, there's a serious, serious issue. And when there's no actual active movement acting against these types of sentences, you know that there's a serious, serious problem with the people. They've allowed the hysteria and the fear that they feel these people represent to completely consume them. Allora, a parlare adesso era Loki, che intanto ringrazia a nome di tutti per l'invito a questa radio e per questi due giorni. Lui dice che, insomma, descrive, insomma, dice che i cantanti hip hop hanno il compito, diciamo, di raccontare quello che sta succedendo, anche per cercare di far capire meglio, perché c'è una grande, come dire, isteria collettiva, c'è la grande paura, vengono questi riots che ci sono stati quest'estate, sono stati sentiti da molta gente come appunto ruberie, come la gente è stata proprio, è stata messa tanta paura alla gente, mentre non si tratta di ruberie, lo chi dice, semmai le ruberie le fa da tantissimi anni, dal periodo coloniale, il nostro governo. È un momento molto duro anche per la repressione che è seguita a questi riots. Si parla di gente che si è presa 5 anni di carcere per aver postato qualcosa su Facebook, di gente malata, ad esempio faceva l'esempio di un malato di cancro che si è preso 8 mesi di galera, di un malato di cancro terminale. Quindi è una questione, un issue, appunto, è un tema molto serio, soprattutto questo della repressione. E compito loro è anche, come dire, di denunciare questa cosa qui. Diciamo, secondo, insomma, cosa si può rivelare? Insomma, a marzo ci sono stati gli studenti che sono scesi in piazza insieme a tutta la pubblica amministrazione che hanno scioperato, eccetera. C'è stata, insomma, una grande manifestazione come non se ne vedevano da tempo, con i sindacati, eccetera. E in questo momento ci sono stati gli scontri diversi, tanti giorni di scontri per l'ennesima uccisione da parte della polizia di un ragazzo di colore, un ragazzo nero. Quindi diciamo che mi sembra che in questo momento a Londra ci siano differenti anche strati di ribellione. E volevo un po' capire che cosa pensano delle periferie, cosa pensano di... Stiamo parlando, insomma, di uno o due giorni sulla resistenza in Palestina rispetto a un paese coloniale, e quindi a forme di razzismo molto forte. Cosa pensano di Londra, se pensano che il razzismo in questo momento, oltre alla crisi, sia un elemento forte anche di scontro sociale, nel senso... Okay, she's talking about the London. London that had the demonstration in March. Mm-hmm. So the demonstration that ended in March, and then the riots, and then the riots that came from a big repression of police repression or police attack, and the death in custody, for example. But especially for the death in custody are addressed targeting the black people, black young people. So that's the main. How is the periphery in London? How could we resist of this repression, of different level of repressions? Well, what I would say is, I would say that if we're talking about the uprising against the cuts, actually started in November 2010 with the storming of Millbank. Now, it's going to continue without a doubt, and we're talking maybe 5 years. Over the next 5 years, this is going to continue. Because ultimately, anybody that saw this government, which tells us there isn't money for education, there isn't money for the NHS, there isn't money for the benefits, there isn't money for the youth clubs and the community services, but there is money for war. There is money to spend millions bombing Libya every day. There is money to continue occupying Afghanistan. There is money to continue the support of Israel. You're talking about a government which says there is money to send people to jail for very, very petty crimes. We're talking about petty crimes. We're talking about a guy with cancer getting 8 months for stealing a TV. We're talking about kids getting 4 years in prison for writing posts on Facebook. Okay. Loki dice le manifestazioni contro appunto i tagli che ci sono stati in Inghilterra sono cominciate nel novembre 2009, in novembre del 2010, però in realtà poi le occupazioni sono cominciate nel maggio 2010, quindi the occupation of the first colleges in May 2010, so and then ended up in a big demonstration in November. Sto dicendo che le prime occupazioni sono state anche nel maggio 2010, quindi hanno tagliato i soldi per la sanità, per la scuola pubblica, per qualsiasi altro centro per i ragazzi, centro di aggregazione. Però ci sono i soldi per la guerra in Afghanistan, ci sono i soldi per la guerra in Libia e per supportare l'occupazione israeliana. Quindi divergenza fra soldi dati all'occupazione, al potere, e soldi appunto negati invece al pubblico, questa è il problema maggiore. Do you wanna say something for the question is about how can we try to have a how can we try to resist of the repression? Or the repression in the UK at the moment. In UK at the moment, and the construction of the racist in Western countries. I mean, it's a big Palestine. The occupation in Palestine could be also an example of how. Yeah, of course. Is building, is making for us the racism attack, because the main thing after the 2010 is having the construction of another kind of racism. That's and the Islamophobia and all these kind of things that affect our daily life. Ho fatto questa domanda dicendo appunto che l'occupazione in Palestina può essere presa ad esempio come in che modo i governi occidentali e i governi neoliberali costruiscono lo stereotipo del razzismo, e lo stereotipo del razzismo appunto in termini visto anche dal 9 settembre, dal 9 settembre 2001, che è cambiato, sì, dall'11 settembre 2001, che è, appunto costruisce anche il nostro modo di relazionarsi con le altre culture, appunto la costruzione dello stereotipo dell'Islam, che appunto ce lo fa vedere come la cultura orribile e cattiva, mentre i governi occidentali sono democratici, però allo stesso tempo appunto ammazzano con le guerre in Afghanistan, ammazzano con l'occupazione in Palestina. I would just say organized, because part of the thing that killed but part of the thing that hurt the student movement at the end of 2010 was all of the arrests and all of the people that were sent down and the lack of organization. But I do think the longer and deeper that these cuts go, and the more people are made aware of Britain's imperial policies around the world, I think the more organized we will have to become as an answer to it. But I think it's definitely organization is the key. La chiave, appunto, sempre secondo Loki, è appunto l'auto-organizzazione che appunto più la repressione tende a disgregarsi, e più dobbiamo essere appunto forti nel cercare di auto-organizzarsi e di creare spazi di contropotere, quelle che poi noi chiamiamo contropotere, che adesso purtroppo non ce li fanno essere sempre più deboli, però in qualche modo appunto l'auto-organizzazione è la chiave essenziale. What I would say is that with the student protests, they went down because people were seeing people go to jail, and at the protests themselves people were getting beat up by police, and that led students to think that the government is saying to them basically, if you protest, we will hurt you at the protests, and then later on we'll put you in jail. and it's saying to everyone, we'll use the media to demonize you to everyone else. And the people that were protesting, the student ones, were mostly students, but the people that weren't students were politicized people. But what happened during the riots is that most of the people, like 90%, were not politicized. And what they'd done by killing someone who wasn't a student was saying now, what they'd done was basically antagonize people that weren't students and just normal citizens, or people that didn't go to uni, or people that weren't politicized, but the actual masses of the poor people, and mostly the poor black people and poor ethnic people. And what they've done there is a big mistake, because the students are politicized, but what they've done now is kind of politicized people that were never politicized, but are now going to start revolting against the government finally. But I think like sort of depicting it as a they is not necessarily correct, because it was a sort of a widespread of people going nuts. But this is what happens when we act like our society is normal. We act like our society is normal, and that the most normal reaction is to completely worship the status quo, have a stake in it, believe it's right, and be willing to die for it. We act like that is normality. That is abnormal. We have normalized insanity. As a friend of ours coined that phrase, normalized insanity is what we basically pledge allegiance to, and the narrative which we accept as correct. And so when that situation happens, people will not react in a rational way. You expect people to have morality over stealing TVs when your government doesn't have morality over stealing resources. We really expect our children to have morality over the stealing of trainers, when we know that our entire position in the world is reliant and based upon a completely normalized immorality. Ok, allora, prima ha parlato a Wade, che appunto ha fatto la distinzione fra che cosa è successo appunto con le manifestazioni che sono poi terminate, però che non sono in realtà terminate, ma le più grandi manifestazioni ci sono state a novembre e a marzo, e lui dice quelle manifestazioni, quelle proteste sono proteste politicizzate, anche se appunto il governo ha minacciato anche prima di demonizzare appunto il significato di quelle proteste, il significato politico di quelle proteste. Mentre per quanto riguarda i riot, i riot sono stati riot dove il 90% delle persone che hanno partecipato non erano politici, ma erano scatenati ovviamente da un aspetto irrazionale, ma anche di rabbia che c'è stato. Lo chi appunto invece dice sì, però i riot appunto sono arrivati da una situazione di lui ha parlato di normalità. Noi pensiamo che la nostra società sia normale, quando in realtà c'è stato appunto un suo amico che ha parlato di normalità insana della società, perché appunto che cosa c'è di normale in questa società, e come appunto qual è la reazione anche razionale che c'è stata nei riot. E nei riot c'è stato come fai a dire appunto che rubare un televisore non sia morale o immorale, quando la nostra società in realtà troppo morale non è, quando appunto porta in carcere un ragazzo per 4 anni perché ha pubblicato delle cose su Riot su Facebook, o appunto un malato terminale di cancro lo metti in carcere per 8 mesi perché ha rubato un televisore. Stiamo parlando appunto con Loki, Logic, Wait e Shadia. Shadia, ciao. Ciao. Ok, speak. I was just going to go back to the question that you asked, Loki. You can only also push people too far. You know, these aren't the first riots in London. They've been going on for decades. and people have been resisting. It didn't just start now. It didn't just start with the last riots. People have been resisting for decades in London, especially, and especially against, racism towards blacks in London and in England. A man was cold-bloodedly murdered by the police. This is what primarily started. This is before the riots even kicked off. They murdered a man called Mark Duggan just for the colour of his skin. And they won't say it, but that's really what it boiled down to. And they cold-bloodedly murdered him. And, you know, I think it just blew out of proportion. And so many things came out of one thing. It started with a murder of a young man, of an innocent young man. And it turned out, and so many things came out of one situation because people were kettled in for so long. With the media as well, I think mainstream media is kind of losing its grip because of the internet. And the stronger that the internet and the more advanced that the internet gets, the more advanced the new generation gets. And there is a new generation out on the streets now. There is a new generation in music now, which is what I define as British hip hop now, today. People that you listen, people like Logic and Low Key that you listen to. And that's not, it's not because they're sitting with me now, but seriously, it's what you're going to hear now. It's what who you're going to be hearing about on blogs. And no one's really paying attention to newspapers anymore because newspapers are letting themselves down by not sticking by the truth. And that's why you read the newspaper, because you want to find out what's going on and you want to find out the truth. But they're running out of ink. And to bring that, the similarities of what's going on in London to Palestine is not that different, There are protests going on in, let's say, the Occupy territories, which is what I call Israel. People may refer to as Israel. And there are protests now against social reform, for social reform. And it's funny is when people are affected by something, you might not be affected by occupation, you might not be affected by racism, but you'll be affected by, your financial problems, let's say. And when your wages are getting tampered with, then it's affecting you personally. When you can't pay your bills and can't support your family, then you are going to turn around and say something. You're not going to keep quiet. And you can't just try and cover your tracks with, let's say in Palestine, just talking about Palestine for now. If you try and cover your tracks with, gentrifying Palestinians from their homes and their villages and their towns, and if you try and distract people by developing and producing certain situations like so-called terrorist attacks that are going on in Israel, and try and inject more fear into your society just to distract them from what's going on in their personal lives and distract them from the thieving that's going on from their own government, then, it might work for a little while. But like I said, the internet is getting more and more advanced. And, a human being was behind the internet. The internet didn't just happen by itself. So, I think that, like I said before, the more advanced the internet gets, the more advanced the new generation gets. And the new generation is giving birth to a newer generation. And that newer generation will give birth to a newer generation. And it will go on from there. And we're just going to go back to history. We're going to go back to the past because it's a circle that we move in. And the more that we try and cover up the past, the more that we'll be faced with very big challenges and very big surprises in the future. So that's why today the music that we do, which I call conscious music, is music that is addressing the past, because we didn't get here today if it wasn't for yesterday. And I just wanted to really hit on that and just pass it on to Logic. Can I translate first? Oh my god, lots of things. Okay, lei dice il razzismo e i riot non sono soltanto non è soltanto non è stato il primo riot. Ci sono stati vari riot che sono preceduti a quello che poi è stato il riot di agosto, che è scatenato da un fatto dell'uccisione di Mark Duggan. E l'uccisione di Mark Duggan, che è un giovane nero della periferia londinese, inglese, non è soltanto la prima morte della la prima uccisione della polizia, ma la polizia, appunto, uno dei problemi è appunto la repressione dei giovani neri, e quindi del razzismo istituzionale inglese. Questo lei ha utilizzato proprio questa cosa. I riot sono stati una forma di resistenza, una forma di reazione che le persone di generazione in generazione hanno subito una repressione, appunto, del razzismo istituzionale. Sono stati, appunto, chiusi all'interno di vari, perché ovviamente non c'è soltanto il muro che è una forma fisica di repressione, ma ce ne sono molte altre di forme di repressione che, appunto, hanno delle reazioni. Tu puoi chiudere le persone per un po', però a un certo punto la cosa può esplodere, e questo ovviamente è successo anche perché una nuova generazione che ha utilizzato le forme di media che appunto sono internet e altri social network, le hanno utilizzati è successa un'esplosione a catena. Quello che noi, parlando ovviamente di se stessa, c'è una nuova generazione che è quella che noi chiamiamo il British Hip Hop, e che ovviamente ha voglia di dire la verità, una verità differente da quella dei media, perché i media non dicono la verità e lo hanno fatto vedere ovviamente in differenti modi, anzi si sono da loro stessi hanno fatto vedere quanto manipolavano l'informazione e cercavano, appunto, di darci delle informazioni sbagliate. L'Inghilterra quindi non è molto differente dalla Palestina, o possiamo trovare delle connessioni molto forti, delle connessioni che, appunto, che arrivano proprio da questo tipo di discorso. Che cos'è la repressione e come in che modo si resiste alla repressione. Una cosa che lei ha detto è poi perché cioè, poi non c'è magari il muro, non c'è il muro dell'occupazione, ma quando tu non hai più i soldi per pagare l'affitto o per pagare delle cose che ti servono quotidianamente, è lì che la gente non si sta calma, è lì che la gente comunque non riesce a trovare delle valvole di sfogo. Una cosa che dice è che questa è la nuova generazione, ci saranno poi questa nuova generazione formerà un'altra nuova generazione che ovviamente non è su questo che è il futuro, una nuova generazione che ovviamente ha i suoi contenuti, che si rapporta ad un presente che costruisce un altro futuro. Now, your logic. I just like to talk briefly. I guess the first question you asked us, that Loki and Await to just slightly, but basically what we need over here is a revolution among the people, and a revolution doesn't come without unrest among the people. So in UK, the people are made to be very comfortable in how they're living, so there's no need for them to come out of their living rooms and do something against the government. Whereby, like in, say, Egypt, for instance, the people had a real reason to come out and make their voice heard. So over the last few months, the protests of, like the student protests, for instance, showed a lot of students that the government, the police, does not care about them. There's a lot of students that went on these protests and left. They went on a protest very pro-police and left the protests against the police, you understand? So they got a whole different idea of what the police are about. That's one side of things. And then the other side of things is the police custody, the amount of deaths we have in police custody. On average, it's like one per week. So basically, it's a thing where the people have just started to see these things for what they really are, basically. People dying under the government's regimes and the government's issues, you understand? So the most recent case of Smiley Culture is what really made a big noise, because he was a big musical figure that people looked up to, so it made a lot of noise in the UK and all around the world, really. So yeah, I don't know where I was gonna go with this, but basically what we need is a revolution. And the revolution with organization. Organized revolution. Lui dice che quello che non abbiamo bisogno ovviamente è una rivoluzione. Fa l'esempio ovviamente dell'Egitto in Egitto le persone si sono organizzate perché c'era una vera e propria ragione per organizzarsi. Dice anche, e questo ovviamente perché sono anche le cose che si sentono, che comunque le riflessioni che sono uscite fuori dal movimento che inglese. Ovviamente l'Inghilterra fino a che Cameron e i suoi pari non hanno sono entrati al governo e hanno tagliato e hanno dato proprio appunto le ragioni per muoversi. In qualche modo il governo aveva fatto in modo di controllare la situazione, c'erano i benefit, c'erano altre facilitazioni che rendevano in qualche modo la vita non facile, ovviamente, perché c'erano altri tipi di forme questa di repressione, però e soprattutto per lui parla delle morti in stato di arresto, che una delle percentuali è un morto per settimana. For the percentage of the not to talk about percentage of course, but because it's a big number for the death in custody, it's almost like 600 people died in custody per year, and the 80% of these people are young black men. So yeah, that's the one of the it says a lot. The exact figure of the amount of people that die in police custody, because there's often sort of ways around it. But one of the organisation which I think really does the most to sort of frustrate this situation is the IPCC, and the IPCC is an organisation that is made up of ex-policemen, and their idea is to police the police. But ultimately, what they do is they serve to cover up. Yeah. The police cover the police's back. So there haven't been any police not only not charged, but let alone convicted of any of these deaths in police custody, which have taken place over the years. And with the example, also the IPCC specialize in putting out misinformation early on. So, for instance, with Smiley Culture, you had the servant press, the run by Rupert Murdoch, which is now becoming more and more clear is completely in bed with the Metropolitan Police at the highest level. And I have personal experience of how they're in bed with the police. But when it comes to the Mark Duggan question, the Smiley Culture question, initially when he died, they put out that he'd stabbed himself. They said, we have, you know, this was a man that died with a stab to the heart after having been arrested by the police in his own house. Why he wasn't handcuffed is strange to me. I mean, and why they allowed him supposedly to go and make a cup of tea. But these are not official reports. These are things that the IPCC leak to the Murdoch press, and the Murdoch press throw out there. So they say he stabbed himself, even though no investigation has come back. So then, well, now it apparently has. And not only did he stab himself, but there were no fingerprints on the knife that stabbed him. Yeah. So surely if I stabbed myself, there would be fingerprints on it. Secondly, the Mark Duggan case, the IPCC, when he first died, first put out the lie that he was armed, had the gun, and shot at the police. Now, there was a bullet lodged in one of the policemen's walkie-talkies. It turned out that bullet was from another policeman and probably a deflection from their one of their bullets being shot at the car, bouncing off the car and hitting one of their own policemen. However, they said, the IPCC, and they've since acknowledged that they misled the public about this, said that he came out. Now, what's also come out is there wasn't even a fingerprint on the gun which they did find on him, which was in a sock. It's also come out that he was lying on his back when they stood over him and shot him. This is not a situation where the police were defending themselves. This is a situation where it could by law be described as an execution. What they did to Mark Duggan. Ok, Loki dice sì, ok, io avevo stavo dicendo per le percentuali delle morti in carcere e si contano ovviamente quello che i report dicono sono 600 morti l'anno e questo è l'80% ragazzi giovani neri. Però ovviamente Loki dice sì, ok, però non è che non si possono, ovviamente le percentuali sono abbastanza fasulle perché quello che vengono più che altro coperte le morti in stato di arresto, comunque le morti in stato di detenzione. Questo ovviamente ci riporta un po' al sistema inglese. C'è l'IPCC che è un'organizzazione, un settore di ex poliziotti che ha la funzione di indagare sulle morti in carcere. Ma ovviamente qual è poi la cosa che fa è coprire le morti e coprire soprattutto la polizia, che è la Metropolitan Police, che ovviamente rimane sempre illesa. Soprattutto abbiamo visto le due delle situazioni, ma quella più palese di Mark Duggan che per quanto riguarda appunto la parte di la parte del cioè che cosa è successo poi durante l'uccisione di Mark Duggan è che all'inizio è stato pubblicato questa cosa che lui stava prendendo la pistola e quindi la polizia ha reagito, ma in realtà la pistola lui ce l'aveva, ma ce l'aveva dentro appunto ce l'aveva nascosta, non aveva e soprattutto non c'erano dai risultati, non ci sono il fingerprint, le impronte digitali che danno la prova che lui stesso in qualche modo reagendo alla polizia. Quindi questa è un'ulteriore uccisione un'esecuzione da parte della polizia. Okay, well. Loro hanno un progetto che si chiama People's Army, Logic e Loki. Well, Logic can answer most of that, but it really started with us like organizing a free night for people to come through to, and because we basically started rapping at an open mic in about 2003, and that shut down in about 2004, 2005. So we then were sort of in a position where we wanted to give a sort of platform for younger people who, like us, were sort of coming up and wanted to sort of spit and hone their rapping skills, improve their rapping skills, and speak their mind in a free environment where they could come for free and where they could actually be exposed to some type of politicization in contrast to the music industry and the sort of tried and tested roots of working as an artist. Allora, People's Army è nato proprio dall'esigenza di dare uno spazio libero ai giovani, ma soprattutto di avere la possibilità di poter far esprimere gli stessi giovani che frequentavano lo spazio. Nasce nel 2005 in un progetto che poi termina nel 2003, che in un progetto che termina poi nel 2005, è comunque appunto una piattaforma che vuole in qualche modo opporsi all'industria della musica, a dare dei contenuti politici alla musica e a cercare appunto di creare degli spazi di soprattutto free, gratis e liberi e comunque politicizzati che possano in qualche modo dare la possibilità di esprimere se stessi e se stesse e dare comunque la possibilità anche di a microfono aperto ovviamente di dare la possibilità di poter parlare e di poter migliorare le proprie capacità, le proprie skills, le proprie competenze rispetto alla musica. Basically, People's Army was basically our aim was to bring people together and to build a platform and a unit, a network of artists that would put a positive message within their music. Because what we tended to see was a lot of the hip hop coming from the States was very negative, and it gave the kids a different impression of life and what to do and how to carry out things. So what we wanted to explain to the kids that you can still make great, good music without talking about stupid things. Noi vogliamo in qualche modo dare un messaggio positivo e dare comunque un altro tipo di possibilità di messaggio, ma soprattutto un'altra possibilità di vita, perché quello che ci viene negato ovviamente è attraverso appunto la musica stupida è proprio la possibilità di autodeterminarci in modo differente. Quello che vogliamo invece appunto creare un contenuto, ma anche un contenuto delle ragioni differente per la nostra vita quotidiana. Ok, io volevo fare una domanda a Shadia, che vuol dire per una donna fare hip hop in un mondo dove insomma, se fare musica, insomma, diciamo soprattutto per quanto riguarda, penso al Medio Oriente, dove abbiamo poche donne che fanno hip hop, comunque poche donne che arrivano qua, soprattutto in Italia, ma anche nel mondo, insomma, nel nostro paese, piuttosto che in Europa, eccetera, si sente così politicizzate, diciamo così, che hanno comunque quindi che vuol dire, secondo, insomma, per te aver fatto First of all, I think that, you know, it's like society. You can't really have a whole society without women. Women make up half the society, so it's just like hip-hop. Hip-hop wouldn't be whole without women. Wouldn't be complete. And, you know, so that's probably what inspired me to want to rap, you know, because I looked up to female hip-hop artists like Lauryn Hill, Queen Latifah, MC Light, you know, all these pioneers of American hip-hop, which I call true school. Some people refer to it as old school hip hop. I still listen to that kind of hip hop today. I looked up to them a lot, and I felt like there was a place for me in hip hop, in Arabic hip hop, especially because I was an Arab, I am Palestinian. I express myself in Arabic. I feel Arab, I feel Palestinian. But the one thing that makes me slightly different than Arab rappers in the Middle East is that I didn't have the community stopping me from, or, you know, I didn't have any restrictions within the community to kind of stop me from getting up on stage and, you know, and expressing myself. In our society, we still have a lot of work to do, and we have a lot of improvements. And I didn't have those obstacles, I didn't have as much pressure. So I just found it, I slipped in very easy into the scene. I had a lot of inspiration, a lot of motivation from the male hip-hop artist, Arabic hip-hop artist, one of them being Eslam Jawad, who is a Syrian hip-hop artist. And he really inspired me, he motivated me to write and to perform and to record. So it was, you know, I have a lot of support from, I had a lot of support in the beginning from male hip hop artists. Allora, lei dice, ovviamente come nella società, la società non può esistere senza il contributo, comunque l'esistenza delle donne, quindi anche l'hip hop non può essere l'hip hop senza avere appunto, senza le donne, le donne che cantano e che fanno hip hop. Ho avuto ho visto all'inizio comunque differenti donne hip hop come esempio per poter cantare, come appunto ne ha citate alcune che chiama appunto l'old old school, Lauryn Hill, Queen Latifah e MC Lai, che ovviamente le chiama come la old school, la vecchia scuola. Ah, la True School, che è un'altra, appunto, la True School, che è un'altra cosa. Ovviamente la mia cultura la potete guardare da questo. Però una cosa fondamentale per me per fare hip hop è il fatto che appunto sono araba, vengo appunto dalla cultura araba, sono palestinese e sento e esprimo appunto nella mia musica il fatto che la mia identità è la mia identità palestinese. Nessuno ovviamente anche all'inizio mi ha mai stoppato, mi ha ostacolato per la mia carriera, anzi rispetto ad alcune delle figure dei rappers come appunto Islam Johan, che è un rapper siriano, mi ha spinto per registrare, per andare sul palco ed esprimermi. Quindi nella mia situazione ho avuto molto un contributo molto forte, un supporto molto forte dalla parte maschile del rap. And you know, I got into from when I was very young, I was taken to a lot of protests, anti-war protests, anti-occupation protests, pro-Palestinian protests. So I was always very aware of my identity, being a Palestinian. Obviously, I was very proud, but at the same time, I was born and raised in England, and I was an Arab, and I was a Palestinian, and you know, I just felt like I was being. There wasn't a voice yet. There wasn't, you know, I needed to make a statement that I was Arab, because we were just known for, you know, what you saw on the news, and the food, and the great food, you know. So to be honest, it wasn't just about that. We're from a region that is one of the most influential regions in the whole world. We influence civilization. We started civilization. So, you know, we play a very, very big part in the world and in humanity. So for me, it was really just kind of trying to find a voice in a society that I felt slightly an outcast in. You know, I felt a bit kind of out of place, because I had to speak English most of the time as well. And then when I was at home, it was always Arabic. And my family are very Arab and very proud. So I'd have to speak Arabic at home because that was who we were and that was where we were from. And, you know, we just had to maintain that and keep it alive. And I brought that into my music, and I still do. And that's what makes up the sound, my sound. I'm very influenced by legends in Arabic, in the Arab music world, people who made me fall in love with my country without even going there. And a lot of them were women, you know, Fairuz, Kulthum, all of these women who influenced men to be as good as them. So, yeah. Ovviamente sono stata quello che mi ha influenzato è stato anche come sono cresciuta. Il fatto che sia cresciuta in Inghilterra, però il fatto che sia stata portata sin da piccola in manifestazioni contro la guerra, in manifestazioni contro l'occupazione, in manifestazioni pro-Palestina, mi ha reso cosciente del fatto che ero un senza voce e che dovevo in qualche modo far emergere la mia voce. Una cosa fondamentale appunto è il fatto che mi sentivo sempre fuori dal out of place, significa appunto fuori dallo spazio di poter parlare, di stare fuori dal cerchio. E quindi questo prima di tutto proprio per un fatto basilare. A casa si parlava arabo e avevamo una forte esigenza di tenere vive la nostra identità araba, e fuori comunque dovevo parlare sempre inglese. Questa doppia cosa mi ha reso cosciente del fatto che dovevo prendere voce, che dovevo in qualche modo prendere voce anche attraverso la mia lingua, ed è per questo che parlo, che canto in arabo, proprio per questo motivo. E ovviamente, cioè, la mia popolazione, la Palestina, mi fa innamorare della Palestina, anche stando in Inghilterra, influenza il mio essere. Ovviamente lei va molto spesso in Palestina, però comunque quello che dice, appunto, tiene vivo e soprattutto cita diverse donne palestinesi che hanno influenzato gli uomini, quindi in questo spinge e dice: le grandi personalità comunque possono in qualche modo avere il proprio spazio, e soprattutto non avere il proprio spazio, ma conquistarselo il proprio spazio. Your project. Okay. The album Soundtrack to the Struggle is out on October 16th. It should be available from all digital outlets on the internet. And it features myself, Immortal Technique, M1 from Dead Prez, Kalashnikov, Black the Ripper. It features the tunes Terrorist, Obama Nation, Long Live Palestine, Cradle of Civilization. It's actually, if I'm completely honest, my work over the past few years really put into one project. I've put my blood, sweat and tears in this project, and I hope it reaches as many people as possible. So thank you for having us. Also, get Logic's new album, Free Man, from Bandcamp. I think that's my favorite Logic release so far. I'm on it as well. So, what we're just trying to do is, you know, in the same way you have some leaders politically around the world who are trying to create an alternative to the neoliberal capitalist model, which has ruined their country and their peoples for decades. We are trying to build a credible alternative as musicians for people to follow after us, to say, okay, well, they did it this way, we have the option of doing it that way. We don't have to go down the very well-known path of signing with the major record label, be put on a 360 deal where they take a percentage of your publishing, a percentage of your merchandise, a percentage of your live shows. While we will probably never be as big as those people on major labels, we will be independent and we will be ours. And that's the most important thing. We will belong to ourselves. So that's the aim with what we do musically, and that's the alternative example which we are trying to create and we are trying to give to those that come after us. Okay, allora, innanzitutto lui dice che uno dei progetti che lui ha in questo momento, che ha terminato in questo momento, è Soundtrack to the Struggle, che è l'ultimo album di Loki, e ovviamente presenta anche l'ultimo album di Logic, che è Freeman Bandcamp, che è l'ultimo album di Logic. Yeah. E questi due album sono album che si possono ascoltare in internet, gratuiti, free. Soundtrack to the Struggle as well. Soundtrack to the Struggle. Yeah. Yeah. Soundtrack to the Struggle, che è l'ultimo, yeah, appunto, di Loki. No, you said it already. I thought you didn't. Sorry, my bad. I was distracted. E ovviamente questi due album si possono ascoltare su internet e sono gratuiti. C'è un piccolo contributo, visto che se si vogliono downloadare, ma si possono comunque avere. E una delle, perché questo? Perché una degli scopi principali di questo lavoro è raggiungere più persone possibili, è dare un'alternativa all'industria musicale, non solo per quanto riguarda quanto riguarda appunto la parte dei contenuti, ma anche la parte economica. Un'alternativa che non vuole, soprattutto perché la volontà loro è non appartenere all'industria culturale, all'industria economica, non fare in modo, infatti una delle canzoni di Low Kill, Soul, è proprio questo, forse dice proprio questa cosa: potete avere tutto ma non avrete la mia anima. E questa è una cosa che lui ha sottolineato durante appunto in questo momento. Anche il titolo, no? Soundtrack to the Struggle, è un titolo molto forte, comunque cioè che riunisce ancora una volta il concetto della musica come della musica come insomma, non soltanto perché la musica in qualche maniera ha un'importanza fondamentale per la struggle, insomma, per le lotte, per la battaglia, per la rivoluzione anche. Ma anche evidentemente, insomma, come dicevamo anche all'inizio, come base, come faro per la piazza. Quindi, insomma, io avevo trovato questo titolo, insomma, molto, molto attinente a quella che è la realtà in questo momento, in cui l'hip hop può mai come più in questo momento molto fortemente essere veicolo di contenuti anche e di punti di riferimento per la rivolta, per l'organizzazione. Okay. Well, I just wanted to say thank you so much for having us. Thank you for translating all this time. It's a hard job. It hasn't been easy. Christina, Daniel, Kento, thank you for having us. It's a pleasure to be here. We hope to come again in the future as well. And all of you are welcome in London anytime. Ok, poi diamo dei siti. Innanzitutto, volevo io ringraziare, noi ringraziare Loki, Logic, a questo punto Kento, Shadia che è di là, Awate, abbiamo sbagliato. It's Awate. Awate, abbiamo sbagliato il nome, sorry for the name. E una domanda a Kento, mi dispiace, insomma, abbiamo fatto una lunga intervista con loro, a te. La traccia che tu hai scelto per Kento, insomma, sarà questa sera insieme anche al Nano e a Serpenzino a accompagnare loro. La cosa che volevo dire a Kento è lui ha scelto per questa mi ha dato l'album, insomma, che si chiama Sacco e Vanzetti. Già il titolo Sacco o Vanzetti, partiamo infatti malissimo, partiamo malissimo. Sacco o Vanzetti, già il titolo però è sei una grande conoscitrice del mio percorso musicale. Nulla. Infatti. No, però Radio Onda Rossa la devo sempre ringraziare perché mi vuole bene e mi passa i pezzi sempre. Quindi sei tu non l'unica io. Colpevole, non la radio. Vabbè, capita, qualche parte devo essere anch'io deficitaria, che poi qualche falla ce la devo avere, non è che posso. Però la canzone che tu hai scelto è Stalingrado. Insomma, ritorna anche qui in Italia, anche in Italia l'hip hop, insomma, un hip hop politicizzato. Quanto l'hip hop è politicizzato in Italia? Quanto è veicolo di quello che succede anche nelle periferie, nelle città? Purtroppo in questo momento in Italia, al contrario di molte città europee, non c'è quel fermento di ribellione, o almeno non con questa forza e questa prorompenza che per esempio abbiamo in Inghilterra, penso alla Grecia, penso anche alle periferie, alle banlieue francesi o piuttosto al Medio Oriente. Roma è un po' su questo, un po' dorme, un po' più sopita. Beh, ci auguriamo che iniziative come quelle di stasera, insomma, servano a svegliarla, no? Loki parlava di Organized Revolution. Io voglio citare un gruppo storico dell'hip hop americano che si chiama Organized Confusion. È appunto, no, l'organizzare la musica, l'organizzare il movimento. E stasera è importante. E da un lato è importante, come dire, per me personalmente, perché questi ragazzi, per chi non li ha visti, sono dei mostri sul palco, quindi anche, insomma, dovremo tenere il confronto e, insomma, sarà una bella sfida. Dall'altro lato mi fa piacere, in questo viaggio che da Londra passa da Roma e arriva fino in Palestina, mettere pure la mia città, mettere anche Reggio Calabria, e insomma dare il nostro contributo. Tra l'altro qui in radio ho incontrato dei lavoratori di Gioia Tauro, della gente di poco Rosarno. Poco prima di noi c'era proprio ed Gioia. È bello, no? Cioè, ha un significato al di fuori di ogni retorica della dimensione globale della lotta, e non come concetto astratto, ma nelle persone che insomma ognuno nel nostro piccolo facciamo parte di questo percorso. Quindi sono contentissimo di stasera, sarà un grande appuntamento e insomma cercheremo di fare il meglio. Ma l'hip hop in Italia? Sì, non sfuggo alla domanda. Nel senso tu c'hai dei testi insomma abbastanza... Citamene qualcuno per esempio. Già quella che tu hai scelto, già Stalingrado. Che insomma, parla di, io non lo so, però immagino dal titolo parlerà parla di resistenza, parla della musica come strumento di appunto, resistenza. Appunto, parlerà della musica come strumento di resistenza. E tra l'altro abbiamo girato il video proprio al Forte Prenestino, appunto, in parte. Questa sera, non abbiamo manco detto una volta che tutto ciò avviene stasera al Centro Sociale Forte Ma Prenestino. Chi ci ascolta lo sa già, lo saprà. Ovviamente. Per cui, insomma, diciamo che continua... Cioè, è veicolo, ci sei solo tu che parli così no, di queste assolutamente, cose? Insomma, assolutamente no, ovviamente è una bella provocazione la tua per farmi dire che ci sono sia dei gruppi storici, è ovvio citare gli Assalti che abbiamo visto ieri sera e che ci auguriamo di vedere anche stasera, perché insomma sicuramente verranno a trovarci anche al Forte probabilmente, ma ci sono anche insomma dei gruppi di ragazzi molto giovani, dei gruppi di teenager che hanno scoperto, in realtà insomma si sapeva già da anni, che il rap banalmente serve a dire qualcosa. E per questo io sono... Ma perché mi sembra molte volte che i più giovani, cioè c'è sicuramente forse i più giovani parlo, perché ormai insomma non ti considero più nella nuova generazione dell'hip hop, no. Ci mancherebbe, però mi sembra che dalle periferie molte volte sta arrivando sempre di più questo un po' hip hop americano, un po' più gangster, piuttosto che ci sia insomma che l'hip hop come un po' più politicizzato, in cui voglio dire siamo a Roma, nelle periferie romane non si vive sicuramente bene, a Roma in Italia ci sono dei grossi problemi sempre di più di sopravvivenza, quindi cose da dire, cose da raccontare, ci stanno tutte le nuove generazioni, si comincia insomma a miscelare la città, mi piacerebbe insomma la prossima volta casomai fare un concerto proprio con i più giovani, quelli che esprimono qualcosa dalle periferie, dalla propria vita, le vissuti eccetera, e quindi ti metto sì, in mezzo, è un'idea che sicuramente insomma mi piacerebbe molto, molto portare avanti, ovviamente non soltanto a Roma o con i ragazzi di Roma, perché tramite il web l'hip hop non è più un fenomeno di metropoli, ma è un fenomeno globale, anzi se prima io mi potevo confrontare soltanto con l'artista tra virgolette della mia città, grazie al web lo posso fare a livello mondiale assolutamente. E per quanto riguarda l'hip hop americano, anche lì ci sono ovviamente, come sai bene, da fare dei distinguo, perché se ci sono dei gruppi militanti storici, è inutile citare i Public Enemy, ci sono anche degli MC relativamente più giovani, però degli MC di oggi tra virgolette, cito Immortal Technique che tra l'altro proveremo a far venire in tutte le maniere, e lì se non mi fai aprire il concerto litighiamo tutti, proprio. Tutti ci provano, ma sembra quasi impossibile, ci hanno provato e quindi insomma ovviamente non è nell'hip hop americano né inglese né italiano che ha una determinata connotazione nazionale, no, in ogni scena musicale complessa, come di fatto viene ad essere anche in Italia l'hip hop di oggi, ci sono insomma, come dire, personaggi che vanno in un senso e nell'altro, anche perché ovviamente la musica e la parola di per sé sono strumenti neutri, è quello che ci metti dentro che lo caratterizza in un senso e nell'altro. E l'hip hop da questo punto di vista, il rap è un'arma, perché è dotato di estrema immediatezza e di estrema democrazia. Cioè non per suonare la chitarra in un gruppo devi sapere suonare la chitarra. Per fare rap scarichi una base da internet, t'attacchi al microfono del computer e registri rap. E questo è un fenomeno negativo o positivo, ma secondo me è più positivo che altro, perché dà la possibilità di esprimersi e tirare fuori creatività anche al di fuori degli esempi di progetti militanti, che sono ovviamente quelli a cui noi tendiamo. Lo stesso fatto che un ragazzo, invece di stare a spacciare sul muretto, ossia a scrivere delle rime, a tirare fuori una creatività e a indagare su quello che ha dentro più o meno inconsapevolmente, è una bella cosa ed è un'arma nei confronti della nostra musica. 87.9 Radio Onda Rossa, l'ultima domanda la facciamo per la mostra, perché questa sera al Centro Sociale Forte Prenestino ci sarà anche una mostra di quadri, una mostra di quadri di un gruppo che viene direttamente da Gaza, che sta girando un po' per l'Italia, rimarranno diverso tempo in Italia, per cui li riascolteremo all'interno di Radio Onda Rossa un po' più in profondità con un'intervista maggiore. Però insomma ci sembrava, ci piaceva, visto che è un'iniziativa per la Palestina, anzi ci fosse un'unione in questo. Oltre a questo ci sarà anche la mostra fotografica che ha realizzato Corum proprio quando è andato a Gaza recentemente per a un mese dall'uccisione di Vittorio Arrigoni. Quindi che cosa esporrete stasera al Centro Sociale Forte Prenestino? Che tipo di mostra state portando in giro? A voi. راح نقدم عبارة عن لوحات فنية قمنا بإنتاجها مؤخرا. حترجم على طول أنت ولا كيف؟ راح نقدم لوحات فنية قمنا بإنتاجها مؤخرا. طبعا إحنا اليوم اللي هنقدم ثلاث أشخاص من مجموعة شبيك اللي هي عبارة عن ست أشخاص. Presenteranno tipo di quadri novissime di questi ultimi tre mesi, e saranno ovviamente tre artisti, due che sono che stanno qui a Roma. Appena sono entrato a Londra, scusa. E poi un altro artista fotografo che sta a Gaza, che partirà per Parigi, perciò non è arrivato qua. Come si chiama il loro gruppo? Il gruppo si chiama WFG Wonders from Gaza for Contemporary Art, arte contemporanea. طبعا أنا حقدم وجوه, صار لي فترة بشتغل على وجوه, تعبيرات الوجوه كيف أنا بحس فيها وبشوفها. ماجد presenterà di pittura astratta su i visi di persone della striscia di Gaza in modo molto astratto, però si vedono anche le facce delle persone. باسل راح يقدم أعلام, كان اشتغل على أعلام دول مختلفة. Invece il concetto di Basel ha lavorato sulla rivoluzione del mondo arabo, sia in Libia, in Egitto. Oh, perfetto. Lo Yemen. وشريف اشتغل على احرف العربيه وبعض الاشياء المختلفه. الشريف anche Sharif Sarhan, quel fotografo che di Gaza, che ha lavorato anche su questo concetto qua, sulla rivoluzione del mondo arabo, uguale di Basel, però in fotografia. طبعا احنا مجموعه تم انشائها في عام 2003. أنشأت أنا وباسل وشريف في عام 2004, تم انضمام حازم ومحمد وشادي للمجموعة. المجموعة صارت عبارة عن ست أشخاص. Questo gruppo Wonders from Gaza è stato fondato nel 2003, che hanno cominciato prima loro tre, Basel, Sharif, Majid di Gaza, e poi ultimamente questi ultimi tre anni sono entrato io, un altro artista di Gaza che vive anche in Italia, qua al nord dell'Italia, Mohammad Johan, un altro artista che vive a Parigi. Che siamo sei. طبعا كنا نعرض اعمالنا في مكان اسمه جاليري المينا, كان تابع لوزارة الثقافة الفلسطينية. نحاول ننهي. Sì, hanno cominciato praticamente di fare questo progetto qua online senza nessun posto fisico, e poi alla fine hanno creato questo spazio che si chiama Muhtaraf Shababik, il laboratorio di Shababik in Gaza. بالضبط. Perfetto, noi purtroppo ci abbiamo pochissimo tempo, io volevo ringraziarvi e sicuramente insomma la radio ospiterà in maniera un po' più approfondita questo progetto, perché so che state in Italia fino a quando? Fino al 10 di ottobre sarete in mostra, so che se avete fatto questa mostra vicino Roma, in Toscania sì, che è andata molto Toscania, bene, è stata molto bella, so che siete stati a Napoli in effetti sì, e anche con Maratani ci avete anche in احنا بنخطط لنعمل معرض مستقبلا في توسكانيا. adesso preparano anche un'altra mostra in Toscana che tornerà l'unico anno che il معرض كان قبل اسبوع يوم 24 كان في معرض لنا مع بعض فنانين من ايطاليا منهم وين هون في توسكانا e c'era anche due settimane fa c'era un'altra mostra con altri artisti italiani che c'era anche in Toscana طبعا احنا قدمنا اعمال فوتوغرافيه عن غزه وحياتها era soprattutto sulla soprattutto su fotografia sulla striscia di Gaza sulla vita sociale sì quindi sono diverse le forme d'arte che vengono utilizzate.